questo arriveranno secondi perché il campionato lo vincerà la Roma. Ah. Sì, sì. Roma, però gli indizi per un Champions, grande campionato. Occhio. La Roma la Champions. Sì. E l'Inter no. Perché c'è la Champions. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'unica cosa che ha senso in questo momento è stare zitti, parlare poco, lavorare e cercare di fare risultati, perché per far sì che le cose si vedano in modo diverso, che è normale che sia, perché noi il calcio non si dipende dai risultati. Le settimane passano, il nostro umore settimanale passa alle vittorie delle sconfitte. Momento è quello che è, però chi si piange addosso dopo un po' mi infastidisce, nel senso che alla fine nella vita e soprattutto nello sport ci vuole orgoglio, no? Questa è la cosa fondamentale, e più che altro quando hai la consapevolezza di essere una squadra forte. Domani è un test importante e soprattutto per vedere la squadra a che livello è in Europa, dove sicuramente dovremo migliorare, perché questa squadra, come ha detto prima Gigi, la scopriremo solo giocando, la canzone la solo vivendo, e quindi questa squadra va scoperta solo giocando, perché non sappiamo dove può arrivare. Quindi in questo momento parlare di scudetto, di finale di Champions, finale di Coppa Italia non ha assolutamente senso. Scopriremo giocando, lo scopriremo vivendo. Qualcuno come Maurizio Crosetti ha scritto: Allegri più Mogol che Battisti. Comunque, questa è la vigilia della signora che sale sul banco degli imputati, uno dei più difficili d'Europa in questo momento, cioè quello del Manchester City. 800 24 00 24, ne parleremo. Lo so, volete un pronostico? Io ve lo faccio. Vince la Juventus 2-0. Contenti juventini? 800 24 00 24. Giorgio De Luca è il nostro autore, poi c'è Giovanni Melchione in redazione, Pietro Lacorte in regia, e ci sono due importanti notizie di cronaca su questa partita e ve le do subito, mentre Pardo, che agganceremo dopo, è in viaggio verso Manchester. Lo agganceremo su un treno nella campagna inglese, questo accadrà tra circa una mezz'oretta. Però le notizie di cronaca sono queste. Allora, contrariamente alle formazioni che avete letto un po' su tutti i giornali, questa sera giocherà Dybala al posto di Morata, quindi coppia d'attacco della Juventus, Mandžukić, Dybala. E poi, questa me l'aspettavo un po' di più, quando c'è una partita così delicata, in un momento così delicato, ma volete che giochi Cáceres? No, gioca Barzaglione, quindi Barzagli in difesa. Per il resto tutto dovrebbe essere confermato, compreso l'esperimento del trequartista che va a fare, dell'agognato trequartista che va a fare invece il regista basso alla Pirlo. Hernanes dovrebbe giocare davanti alla difesa. Oh, poco fa ha parlato anche Rudy Garcia, contrariamente a quanto dire, ho detto su Pole Viali, la Champions League c'è, inizia, e come la Roma ospite i campioni d'Europa del Barcellona, alzi la mano chi non pensa a quella disgraziata partita dell'anno scorso con il Bayern di Monaco. Però acqua passata, Garcia dice non faremo barricate, non penseremo solo a difenderci, però speriamo che ci pensino a difendersi rispetto a quanto è accaduto un anno fa. Garcia. Domani giocheremo con umiltà ma anche con ambizioni, vogliamo qualificarci, e per qualificarci sono 6 partite dove faremo sempre il nostro meglio per prendere dei punti, e abbiamo anche una rosa di qualità, lo sappiamo. Vabbè, sto leggendo un sacco di messaggi carini dopo il pronostico che ho fatto sulla Juventus, ma è così, è un gioco, ragazzi, volete tapparmi la bocca? Non posso neanche più fare i pronostici. Sto aspettando di fare quello di Italia-Lituania di basket domani, ma lo farò solo domani. Oh, parleremo di tutto questo e di molto altro. Avremo grandi ospiti subito dopo il traffico che è in arrivo. Parleremo di Juventus con Alessio Tacchinardi. Poi dovremo avere una maglia rossa, rossissima, più tardi, e prima di agganciare Pardo sul famoso treno inglese. Allora, altre voci e altri temi. Verso le 15, dopo il GR, mi raggiungerà Marco Bellinazzo per parlare dei conti della Juve, che sono stati presentati e sono con un segno più, per parlare di uno stadio del Portello che non si farà più, perché Berlusconi ha detto: io amo San Siro, quella è la nostra tradizione, poi il Portello magari ci sono dei lavori di bonifica che non sono stati preventivati, ma tant'è. Berlusconi ha parlato anche del ritorno di Mario Balotelli, sentiamolo. Ho visto una bella partita finalmente, ho visto un Inter molto vigorosa e ho visto un buon Milan, con buone prove da parte di tutti gli 11 componenti in campo. Ho apprezzato veramente ciascuno, e anche Balotelli quando è entrato, che penso possa essere un rafforzamento della nostra rosa. Quindi direi che ho appena telefonato a Mihajlovic per fargli i complimenti. Quindi tutti coesi e la mela marcia non c'è più, o quantomeno forse è stata risanata da Mihajlovic, presto per dirlo. Altro tema, c'è la pistola di Maradona, metaforica naturalmente, puntata contro il povero Maurizio Sarri. Pare che questo signore che oggi allena il Napoli, le hanno fatto un regalo di compleanno grandissimo. Quindi praticamente a Sarri hanno regalato la panchina del Napoli. Per Maradona era meglio confermare Rafa Benitez. L'anno scorso, vi ricorderete, la scorsa stagione De Laurentiis a questi microfoni prospettò l'idea di Maradona ambasciatore del Napoli nel mondo. Non so se sia ancora attuale, proveremo uno di questi giorni a chiederlo di nuovo a De Laurentiis. Intanto, a proposito di presidenti, ieri sera a Tiki-Taka con Pardo c'era Renzi, il premier, che si è difeso dalle accuse per quel viaggio a New York per vedere la finale tutta italiana, tutta tricolore, degli US Open tra Pennetta e Vinci. La cosa che un po' mi dà rabbia è che talvolta penso che se questa cosa fosse stata la finale di calcio, nessuno avrebbe fatto polemiche. Però è la finale del tennis femminile, aggiungo femminile perché talvolta c'è anche un retropensiero sullo sport e sul movimento femminile in generale, non soltanto sul tennis, anche in altri sport, allora qualcuno storce la bocca. Io sento Renzi e mi viene in mente Andrew Mercou, che è più vero del nostro imitatore, che è più vero dell'originale. Va bene ragazzi, come temi, tanto per cominciare, penso possano bastare. 800 24 00 24 è il numero verde. Adesso sentiamo il traffico e poi ci raggiunge Alessio Tacchinardi, con cui approfondiamo il discorso, un discorso che mi sta qui. Ma è possibile, ne scrive anche oggi Alessandra Bocci sulla Gazzetta dello Sport, criticare, fischiare, contestare in maniera così dura un allenatore che 3 mesi fa stava chiudendo la stagione più importante della Juventus negli ultimi pur vittoriosissimi anni? Secondo me no. Traffico. Io l'avevo già detto tempo fa, era già fuga da scudetto prima della pausa, adesso è fuga effettiva tutti. Mi sembra l'anno più adatto per. Può vincere lo scudetto. Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Convocati. Dunque, vi abbiamo buttato lì qualche tema, giusto di discussione, sono tanti, 800 24 00 24. Il principale è quello che ci porta a Manchester. A proposito, vi ripeto, Pardo è in viaggio in treno verso Manchester da Londra e poi lo sentiamo stasera, commenterà la partita. Intanto Alessio Tacchinardi, buongiorno e grazie. Ciao Ale. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senti, da mister a mister, quest'anno alleni in Serie D, no? Per Golettese. Sì. E devo dire che ho fatto più o meno 2 partite come non come la Juve, però ho fatto 2 belle partite, ma ho raccolto solo un punto. Quindi insomma mi sta girando tanto bene anche me. Però mentre la Juve a Roma non ha fatto una buona partita, ne ha fatte due ottime partite, purtroppo non stiamo segnando, però insomma. Vabbè, prima o poi va dentro. Speriamo. Prima o poi va dentro. Il problema è che la Juve due buone partite non le ha fatte, perché fino a qui ne ha fatte solo di molto modeste adesso. Ma guarda, con l'Udinese onestamente per 70 minuti non ha fatto neanche una cattiva partita, e lo stesso ha fatto contro il Chievo, che poi dopo ha sbagliato veramente tanto. Detto questo, però, come può essere a me, che poi non interessa moltissime persone, però che manca davanti quello che ti fa gol, alla Juve io ho la sensazione che manchi terribilmente un giocatore come Tevez, che l'anno scorso gli ha tolto tante castagne dal fuoco. La Juve arriva anche bene negli ultimi 30 metri, e senza questo giocatore qua adesso è terribilmente difficile. Detto questo, devono sicuramente salire di livello, e secondo me saliranno di livello i Dybala, i Cuadrado, i Mandzukic, i Zlatan. Insomma, la Juve ha fatto una super campagna. Anche secondo me, ma è una questione di personalità, sai Alessio, perché se hai Tevez davanti con quella personalità, con quella garra, con quella grinta, tu sai che hai quello che in America chiamano il go to guy, no? Nei momenti difficili vai da lui. Ma guarda, io andavo a vedere nelle mente di lui l'anno scorso, Tevez includeva personalità, leadership quando arrivava con la macchina nel parcheggio di nuovo. Quindi insomma, ci sono quei giocatori che, e devo dire che, e poi altri, e io ci sono passato per esperienza con Ned, con Zidane e compagnia, si nutrono del livello della leadership di questi giocatori qua. Si parla di Pogba che non è un leader, ma Pogba non è nato leader, Pogba è un fuoriclasse, diventerà un grande giocatore, ma come penso anche Messi non sia un leader, sia un fuoriclasse assoluto, il numero uno al mondo, ma leader è un'altra cosa. Quindi Ibrahimovic, Nocerino si nutriva di Ibrahimovic, Lachinari si nutriva di Nedved, Tevez, Pogba si nutriva di Tevez. Oggi Pogba gli manca quel giocatore lì, che oggi onestamente è difficile trovare per la Juve, ma non è colpa la Juve che Tevez è andato via. Quindi la Juve poi ha fatto di tutto per colmare questo assenso. Speriamo onestamente che questi giocatori salgano di livello. Senti Alessio, da mister a mister, ha un senso mettere in discussione, fischiare, contestare Allegri, che meno di 100 giorni fa si giocava la finale di Champions League, che ha guidato la miglior stagione della Juventus alla fine, nelle ultime trionfali stagioni, però adesso tutti dicono vabbè, però l'anno scorso era merito di Conte, vabbè, però adesso Allegri che deve guidare la macchina da solo senza l'aiuto del pilota automatico non riesce più a far niente. Secondo me è una cosa, a me è una cosa che fa diventare matto. Io non sono juventino, però è una cosa di una irriconoscenza estrema. È la follia dei nostri 60 milioni di italiani che sono tutti allenatori. Allegri sta facendo tutto il possibile per... Non è facile comunque incastrare giocatori nuovi, non è facile sopperire a questa mancanza di personalità, perché poi nel campo non ci va l'allenatore, ma ci vanno i giocatori. Quindi è i giocatori che poi ti devono tirare fuori da questa situazione. Detto questo, io comunque la Supercoppa italiana l'ha vinta, anche se ormai la pazzia nostra del nostro calcio frenetico si è già dimenticata, e quindi è normale che la Juve, perché è la Juve e fa parlare, che era arrivata l'anno scorso in finale di Champions, ha fatto una stagione straordinaria, adesso ci abbia gli occhi puntati, perché onestamente ha qualcosa che non va, perché dopo può essere anche un po' di sfortuna a volte, può essere un po' di imprecisione davanti, ma c'è qualcosa che non si incastra ancora bene. Secondo me non ha ancora trovato Allegri la fisionomia di questa squadra esatta, e non è neanche facile, però discutere o criticare Allegri secondo me non è assolutamente, non ha senso, andare un attimo ancora tempo. Certo che se da due mesi la Juve non decollasse, allora è normale che dopo l'allenatore può ovviamente essere criticato, ma oggi Allegri non ha nessuna colpa di un ricambio generazionale così forte, certo, soprattutto di questa mancanza del leader negli ultimi 30 mesi. Certo, ma questa è una squadra nuova, non è una squadra, come dice qualcuno, che ha avuto un restyling. Questa è una squadra profondamente nuova nei suoi interpreti principali. E a proposito di interpreti, stasera a Manchester con ogni probabilità vedremo Hernanes preso come trequartista, e che giocherà invece alla Pirlo. A te è un'idea che convince oppure no? Ma convince, è secondo me l'emblema di un allenatore che non ha ancora incastrato bene le sue pedine, e soprattutto in un momento dove non è facilissimo si trova contro una corazzata che in questo momento qua è una squadra che in Europa sta meglio di tutti. Marchisio anche lui infortunato, quindi insomma non sta girando bene. Allora prova a fare prova a tenere qualcosa. Hernanes può giocare basso davanti alla difesa, non è stato preso per quello, però proprio perché in questo momento qua la Juve ha bisogno di un po' di certezze che non ha, prova un po' di soluzioni, ma un problema è farlo magari in Coppa Italia o nell'amichevole, un conto la prima di Champions contro una corazzata come Manchester, che fa terribilmente difficile. Certo, poi tu sai che la sfiga ci vede benissimo, e allora quella maglia che è stata tua, anche, o quel ruolo che è stato tuo, quello di Marchisio, secondo me era fondamentale in questa Juventus, perché Marchisio, che forse è stato il migliore, certamente è stato uno dei migliori della Juventus l'anno scorso, adesso starà fuori ancora a lungo, era il giocatore della continuità, no? Cioè quello che poteva essere la colla tra le varie novità della Juventus. Sì, soprattutto l'esempio nel campo da seguire in momenti difficili, perché oggi quando la palla, o quando già cominciano i primi mormori o fischi da parte dei tifosi, Buffon l'ha preso di petto, ma ci sono pochi giocatori come Buffon che hanno la forza mentale di poter andare dai tifosi e cominciare magari, no, aspettate un attimo, perché insomma abbiamo fatto talmente bene fino ad oggi. Quindi Marchisio, e sarà un caso che proprio anche Marchisio l'hai praticamente avuto poco, perché è sempre stato infortunato, cosa che magari gli altri anni non ha mai saltato un allenamento. Quindi a volte gira così, può girare un mese, può girare cinque partite, ma può girare anche una stagione. Non è mica detto che la Juve, come diceva Mancini ieri all'Expo, la Juve vincerà il campionato, quantomeno la Juve ha tutto per poter battagliare, per poter vincere il campionato. A volte però ci sono delle annate particolari e degli incastri che proprio non vanno, quindi in questo momento qua la Juve ha delle difficoltà. Sicuramente non ci voleva una partita delicatissima come con il City. Certo, certo, e adesso l'Inter si sente forte, nonostante tre partite. Vedi, alla fine è questione di attimi, momenti, l'Inter non ha stravinto ovviamente le prime tre partite di campionato, però adesso si sente fortissima. Sai però cos'ha l'Inter in questo momento qua? Però ha lo stesso allenatore dell'anno scorso, che l'anno scorso era criticato Mancini perché l'Inter non andava, e quindi Shaqiri in un contesto difficile sembrava un pesce fuor d'acqua, invece Shaqiri è un buonissimo giocatore. Oggi però è riuscito Mancini a prendere i suoi giocatori e soprattutto avere i leader. Oggi l'Inter magari non vince giocando in maniera spettacolare, ma ha fame di vincere, ha giocatori affamati, giocatori che tra virgolette sono un po' rotti di arrivare quinti, sesti, ottavi e tutti, quindi può succedere, no? Che sono degli incastri. Il Felipe Melo di oggi è un giocatore che all'Inter mancava, ma perché Medel non è quel giocatore. Medel non era quel giocatore, perché era un giocatore che magari sì, con l'esempio, ma anche la parola, anche un'entrata, ma anche proprio uno strappo. E poi ha preso grandissimi giocatori l'Inter, ma ha preso giocatori che hanno fame. Non dico che la Juve non ce l'abbia, però poi in questo momento qua l'Inter è normale che abbia qualcosa di rivincita questa rivalsa. E poi ha preso dei super giocatori, perché ha smembrato una squadra. L'anno scorso Mancini si criticava perché faceva fatica, ma giocava a ranocchia. Quest'anno giocano una coppia centrale che, se gli passi vicino, ti danno una scarpata che ti mandano a 30 metri. Quindi insomma non è facile fare le squadre, ma quando le incastri bene, e l'Inter mi sembra che sia incastrata molto bene con grandi giocatori. Però è il più bravo di tutti a farsi prendere i giocatori, impara che tu, sex appeal, ti fai prendere chi vuoi, vedi lui. Bisogna dire ai presidenti che sono bravi, migliori e tutto, così poi ti compri il presidente, perché se non capisci niente non ti compri. No, Mancini però ha veramente... No, sai, proprio chiudo, ho visto due giorni fa la campagna acquisti di Mazzarri, Rolando. Wallace e Taider. Sì. Cioè, oggi con Dobbiá, Jovetic e compagnia, insomma, Mancini è stato bravo, ma Mancini comunque è un super allenatore. Lui, ma bravo anche a comprare i giocatori. Provate a chiedere, scusa, mi prendi Luis Gustavo? Gli hanno riso in faccia. Grazie, Ale. Ciao, un saluto. Ciao, un abbraccio, Alessio Tacchinardi. Per quel che riguarda il fine primo tempo, sicuramente è stato solo un modo per cercare di difendere innanzitutto i compagni più giovani che sono al primo anno di Juve, che avranno già attraversato delle difficoltà, però arrivare a vestire a maglia da Juve è un altro mondo, no? Questa è la città tutta Chinardi, no? Gigi Buffon, uno dei pochi in questa Juventus ad avere comunque la personalità enorme, le palle enormi per andare davanti alla curva e prendere la situazione di petto. Allora, tutti i temi di cui avrò gran piacere di parlare insieme, 800240024, adesso ci fermiamo per la borsa, poi dovremo avere una maglia rossissima, io spero proprio. E poi andremo su un treno inglese dove sta viaggiando Pardo. A dopo. Eccoci! Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. tutti convocati. The same deal today. It's one and two for the stage, but this man is our leader overall. Aru takes the lead in the welter. Sabrente mezulena con patta te pilarda chi non mi vai cena mio di una garda. Via Fabietto. Vediamo un po' sullo sforzo, la volata di Fabio Aru. Secondi, 1:50 è la volata. La perde ma per un soffio, Riccardo. 1:53. Ah, bellissimo. Grandissimo peccato, finale di Fabio Aru. Peccato. A 3 secondi maglia. Però secondi stanno in una buona. Ci siamo. Stanno in una buona 3 secondi. Bellissima cronometro di contenimento nell'ultima parte di Fabio Aru. Non ce l'avevano fatto più vedere, però grandissima prestazione di Fabio Aru. Fabio Aru, il cavaliere dei quattro mori, ha matato il toro, ha matato il Moulin Rouge. Riccardo, accompagnami Fabio, perché aio, Fabio Aru vince la Vuelta a Spagna. Aio, alza le mani per favore, aio. E le alza le mani e ringrazia anche i suoi compagni di squadra. Grande Fabietto per questa Vuelta. Beh, vi confesso che a me i brividi vengono anche il martedì, che sono passati 3 giorni da quell'aio urlato al cielo. Fabio Aru, il re di Madrid. Buongiorno Fabio. Buongiorno a voi. Ciao. Beh, ti dico grazie, come ha fatto Magrini. Grazie a voi. Insomma, è un'emozione anche per me sentire ancora la voce, insomma, dei commentatori. Sono fatte delle emozioni che magari mi accorgerò fra qualche giorno, insomma, realizzerò fra qualche giorno. Sì, realizzerai fra qualche giorno. Renzi ha scelto di andare a New York, ma a Madrid si è perso qualcosa. Una delle stelle più brillanti di un weekend meraviglioso, Fabio Aru. Sai, c'è Pier Augusto Stagi in linea e ti dico che ovviamente ci ha raccontato la Vuelta come tutte le altre grandi corse per Radio 24 e ha detto: va bene, 3 secondi. Anzi, Aru ha perso la maglia, la riprende a cronometro invece quei 3 secondi, tranquilli, ha fatto un circoletto su quella salita e non ha sbagliato. Ciao Pier. Non ha sbagliato Aru, noni, perché è facile fare i fenomeni con le gambe degli altri. La verità vera è che il fenomeno è lui, è un ragazzo eccezionale, lo sa, lo seguo da quando è ragazzino e dilettante, e ha un grande dono, anzi ha 2 grandi doni, uno che è un grande campione, l'altro che ha una modestia, una serenità e un modo di rimanere umile anche se essere arrendevole, che lo fa quasi, e quindi quello credo che sia la cosa più bella. È un ragazzo che va assolutamente incitato e preso anche come modello. Sì, Fabio, però entrare a Madrid con il mantello rosso un certo effetto deve pur avertelo fatto, Ma guarda, è stata un'emozione incredibile. Poi anche la premiazione alla sera, quando è andata via la luce, insomma, con tutto il pubblico, tutti gli spagnoli che comunque sia mi hanno fatto un grandissimo tifo, penso che mi rimarrà in mente parecchio tempo. Per festeggiare con tutta la mia squadra all'arrivo dopo il traguardo, e sono state quelle le emozioni più belle. Cioè, ti dimentichi forse anche della fatica che hai fatto per raggiungere degli obiettivi. Sì, ci posso credere, anche se poi la fatica torna, perché quella ce l'hai nelle gambe e l'hai fatta tutta. Entri nel club dei grandi, tra quelli che hanno svoltato, Nibali, leggevo questa intervista di oggi, è la svolta della carriera per Fabio Aru questa vittoria, come lo è stata per me la vittoria alla Vuelta. Ma sicuramente è una dimensione nuova, già dall'anno scorso quando ho fatto il podio al Giro ho avuto più responsabilità, più impegni, però cerco di viverla sempre abbastanza serenamente, e questo tra virgolette successo non mi ha mai cambiato, anzi, perché ho sempre voglia di faticare, sempre voglia di impegnarmi per raggiungere dei nuovi risultati. Ringrazio anche Pier per le parole che ha detto nei miei confronti, lo conosco molto bene, e insomma mi fa piacere che che sia questo il suo pensiero che ha verso di me. Sì, e lui conosce molto bene te perché ha descritto come avresti vinto la Vuelta, e questo lo ripeto. C'è qualcosa, Piero Augusto Stagi, che non hai ancora chiesto a Daru in questi giorni? Guarda, io sono un tifoso di ciclismo, non seguo solo per lavoro, proprio una grande passione. A un corridore come lui vorrei parlare per ore e ore, e probabilmente magari un giorno mi concederà una mezza giornata e mi farò raccontare tutto. Sì, ma in bicicletta però. In bicicletta devi salire in bici. Se in bicicletta è una carogna, lo dico già adesso, no, ce la faccio più. Quindi Fabio, per favore, al bar, al ristorante, in riva al mare, in barca, ma non in bicicletta. Almeno, no, quella da passeggio. Se vuoi fare una passeggiata con me, la facciamo. Quella nera da panettiere. Esatto, su una ciclabile. Però le voglio chiedere, perché io lì ho avuto un brividino, lo ammetto, infatti non l'ho neanche disturbato, ho solo mandato un messaggino a Fabio, e poi in quelle situazioni non rompo mai le scatole, lui lo sa, e credo che forse un pochino mi apprezzi, anche perché in certi momenti alzo il piede dell'acceleratore, però ho stressato Beppe Martinelli e Umberto Inselvini, perché lui il giorno prima, venerdì, è caduto e ha picchiato quel ginocchio che mi preoccupava moltissimo. So che lui ha una testa pazzesca e avrebbe fatto tutto il possibile per non farsi mettere in ginocchio, però io un brivido lungo la schiena l'ho avuto, e voglio sapere se anche lui ha avuto per un attimo paura, ecco, paura di non farcela. Ma ti dico la verità, Pier, alla fine venerdì ho preso veramente una bella botta, perché siamo caduti a 50 all'ora in un tratto dove nessuno si aspettava, perché c'era un po' di vento, quindi ho battuto sia il ginocchio che il fianco destro, e proprio nelle ossa, e quindi la sera sì, ho dormito, ma non come gli altri giorni, quindi sabato mattina ero anche un po' teso, mettiamola così, un po' innervosito, anche perché dopo 20 giorni sai che ti devi giocare la Vuelta, proprio quella tappa lì, e non sai come il tuo fisico può reagire, anche perché dopo una caduta, insomma, il fisico non si sa bene come reagisce il giorno dopo. Però sono partito con la grinta di sempre, ho fatto fatica i primi chilometri, ma poi dopo, diciamo che la grinta, la voglia di fare, la voglia di portare a casa questo risultato, è una grande squadra, mi hanno fatto raggiungere tutto questo, quindi non posso che, sicuramente senza la squadra non avrei fatto questo risultato, quello è poco ma sicuro. Fabio, per finire, c'è già un sogno? Cioè già il prossimo sogno? Ma io ti dico, come sono arrivato a Madrid mi sono goduto i momenti, però ieri mi ero già tra virgolette dimenticato di quello che ho fatto e pensavo già ai prossimi obiettivi. Non ho ancora partecipato al tour e magari l'anno prossimo mi piacerebbe prendere il via, però questo sarà una cosa da decidere con la squadra e anche le Olimpiadi, che sono, si disputeranno in un percorso molto duro a Rio e sono adatte alle mie caratteristiche, quindi vedremo. Dai, adesso pensiamo a riposare un po' e poi dalla prossima stagione. E quindi i sogni sono già due. Grazie Fabio, grazie davvero. Torno a dirti grazie. A grazie Fabio Aro, capito Stagi? Ne ha già due di sogni. Ho capito. ha messo dei bei sogni, siamo già a posto per il 2016. Siamo già al carico se pesante. Se riesci a realizzarne uno. Come no, siamo già ai carichi pesanti. Ciao Pierino, ci sentiamo adesso, presto. Adesso dimmi. Ci penso e poi ti dico dove metto il cerchiolino. Dai, pensaci, poi me lo dici a stretto giro di posta. Ciao Piero Augusto, grazie. Un abbraccio a tutti. Ciao Piero Augusto Stagi. Allora, ci fermiamo un istante per il traffico e subito dopo abbiamo già Fabio Vincenzo Federico, Reggio Emilia, Milano e Padova. 800 24 0024, numero verde per i nostri ascoltatori. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. E dopo Fabio Aro, di rosso vestito da Madrid, arriva Fabio da Reggio Emilia. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, da un Fabio all'altro. Mi sono goduto quel Fabio prima del cronista per tutto il tempo che l'ha detto, che ascoltavo. Non avevo mai sentito nominare il mio nome in quel modo. Ah, visto. Eccezionale. Niente, da juventino devo dire... l'analisi di Tacchinardi è perfetta, però secondo me che ci manca e sta mancando un po' di fortuna, perché non si può perdere con l'Udinese con un tiro in porta. Con la Roma ha fatto una parata sconvolgente il portiere, stavamo parlando di altro in questo momento, se la palla entra. Il palo di domenica, perciò sì, secondo me oltre Tevez, però Fabio, va detto che con la Roma è chiaro, il calcio è fatto di episodi eccetera eccetera, però la Roma quella partita non ha certo rubato, in quella partita non ha certo rubato i tre punti, eh. Lei ha ragione, se non c'è quella parata miracolosa, stiamo parlando di un 2-2, stiamo parlando di un altro film, magari la Juventus starebbe vivendo un momento un po' più tranquillo. Un altro spogliatoio, un'altra cosa, perché è vero, manca quelle persone davanti, manca la persona davanti, manca la persona in mezzo, ma quante altre partite abbiamo vinto con degli episodi? Sì, ma c'è, ma calcio è questo, eh. Perciò credo che non stiamo dicendo niente di nuovo. Ci manchi. Adesso ancora non si è coordinata bene la fortuna con la Juventus, secondo me. Sì, poi la Juventus è come l'Inter, come il Milan, a differenza della Roma è un cantiere aperto, perché sappiamo bene come Cuadrado sia arrivato il terz'ultimo giorno, come alla fine Hernanes sia stato, che stasera giocherà davanti alla difesa, sia stato preso nelle ultime ore di mercato, e come ha spiegato Marotta in maniera anche un po' imbarazzante, come terza scelta, perché si volevano degli altri giocatori che conosciamo, da Draxler ad Hamsik. Un po' di pazienza, un po' di credito però secondo me va dato a Conte, perché come dicevo prima, a Tacchinardi questa squadra non è stata ristrutturata, cioè non ha subito un maquillage, questa squadra è stata profondamente rifondata, quindi mi sembra del tutto ingeneroso non dare quantomeno il tempo per mettere insieme le tessere del mosaico di una campagna acquisti che secondo me rimane comunque di primissimo livello. Vincenzo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, complimenti, buongiorno. Per la trasmissione. Grazie. Anche io, diciamo, volevo intervenire sul tema Juventus. Allegri va bene, insomma, va bene tutte le sue attenuanti, infortuni, giocatori, insomma, sono arrivati che non erano proprio quelli scelti. Secondo me anche lui ci sta mettendo del suo, nel senso che si sta un po' incastrando su tutti questi moduli. Io direi ne scegliesse uno e andasse avanti con quello lì, e ogni volta sta lì a cambiare, a fare, quindi anche i giocatori secondo me si sentono un po' disorientati, diciamo, su questo continuo cambiare di moduli, ecco. Però anche l'anno scorso fu così, no? Si ricorda come partì con la difesa 3, che poi è quella che la Juventus conosce a memoria, che è il modulo di Conte, tanto per essere chiari, e poi arrivò a costruire la sua Juventus al momento opportuno. C'è da dire, e non è un alibi, non vuole e non deve essere un alibi, che il capitolo infortunati è stato particolarmente pesante, anzi può essere un argomento su cui discutere, eventualmente in maniera onestamente critica nei confronti di Allegri. Poi in parte può essere una questione di preparazione, in parte può essere una questione di sfiga che si è accanita su giocatore chiave della Juventus, su quello che insomma doveva essere la vite in grado di saldare a centrocampo i vecchi e i nuovi arrivati. Mi riferisco ovviamente a Marchisio. Federico da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocati. A lei. Io per essere originale volevo parlare di Allegri, appunto. Sì. Volevo dire questo da tifoso juventino medio. Fischi o non fischi? Tanto per chiarire. Pazienza che sta finendo, allora, o pazienza che c'è ancora? No, pazienza che c'è ancora, però ci sono due aspetti che sono secondo me radicati in molti tifosi juventini. Il primo, non dimentichiamoci come è stato raccolto Allegri l'anno scorso, cioè con una grandissima diffidenza, no? Sì. E quindi questa diffidenza, e poi lui ci ha messo a tacere tutti quei risultati, però c'è da dire che rimaneva sempre questo dubbio se avesse avuto una grandissima intelligenza a gestire il lavoro fatto prima da Conte, oppure se fosse tutta farina del suo sacco. E il secondo, tutte il due le cose? Probabilmente, cose. Sicuramente sì, infatti. E il secondo è il precedente del Milan. Io ricordo 3 mesi fa, io sono di quei tifosi che si diverte lunedì mattina andare al bar e a prendere in giro o a essere preso in giro. Chiaro. Il barman interista, in quest'ultimo caso purtroppo a essere preso in giro ultimamente, però voglio dire con molta goliardia. e mi ricordo che i tifosi milanisti 3 mesi fa mi dicevano sì sì, adesso festeggia, ma se Allegri fa la stessa cosa che ha fatto Rubina l'anno prossimo avrete poco da festeggiare, no? Quindi c'è questa diffidenza probabilmente nei confronti di Allegri, che è del tutto ingrata e ingiustificata probabilmente, che però il tifoso juventino ha, cioè Allegri non è stato accolto alla sì, Juve sì, come... questo lo sappiamo, però Allegri era il nuovo imperatore a Berlino, in una finale di Champions League che la Juventus non vedeva da qualche annetto e che Conte ha visto in, più che altro in televisione. Non è necessariamente, non è necessario legare le due esperienze, cioè l'Allegri del secondo anno al Milan, che viene sottolineato anche da molti messaggi SMS, che può essere un pensiero un po' diffuso e comune, no? Non è necessario fare un parallelo tra le due esperienze. Non dobbiamo dimenticare che mentre quel Milan era praticamente lo stesso, con Ibrahimovic, Thiago Silva e tutti gli altri interpreti, era lo stesso che aveva vinto lo scudetto l'anno prima, questa Juventus è stata rifondata ed era giusto rifondarla. Poi, se ci siano delle, così, delle discussioni all'interno della società tra Allegri e la società stessa, può essere. Se ci sia qualche malumore, può essere, anche, come sempre accade quando non ci sono i risultati. Io lo dico chiaramente, ma l'avete fatto molte volte anche voi, mi dà da pensare il fatto che insomma ci sia voluto un anno per farsi prendere un giocatore che Allegri desiderava fortemente e che era il trequartista e che è stato preso l'ultimo giorno di mercato. Si può anche essere maliziosi fino in fondo e leggere, come avete fatto anche voi, in maniera un po' strana, quella riproporre Padoin nelle prime uscite di campionato, quasi a sottolineare, guardate che io questi, Vidal è andato via, guardate che io il trequartista non ce l'ho e quindi faccio giocare quelli che voi mi date. Questo può così far pensare a qualche discussione, cosa che può anche succedere, però insomma adesso un pizzico di tempo e di pazienza per costruire una squadra nuova ad Allegri secondo me va dato. Prima di Filippo da Treviso, non dimentichiamo, domani torneremo a parlarne in maniera insistente, non dimentichiamo che domani c'è Italia-Lituania, quarti di finale degli europei, un flash con Danilo Gallinari, il nostro leader. Penso che sia un grossissimo errore accontentarsi, non abbiamo combinato veramente niente, quindi manca ancora tanto, tanti minuti da giocare. Ragione Gallinari, giusto così, ci siamo divertiti un mondo, ma ancora il risultato va stretto nel pugno. Quale sarà? Lo scopriremo con grandissima emozione e grandissimo piacere. Filippo Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo. Dica. Niente, io leggo il giornale e vedo che santificano Felipe Melo, quando il vero fenomeno dell'Inter a centrocampo è stato con Dombia domenica. Felipe Melo, ho visto solo uno che è Randella, che stuzzica gli avversari con i calcetti a palla lontana e con le offese, cioè non riesco a capire, o vedo un altro calcio io... No, non credo veda un altro calcio. A me con Dombia, devo dire la verità, non è piaciuto da impazzire. Migliorato, certamente, ottimo giocatore con grandi margini, ma nel derby non mi ha fatto impazzire. La presenza di Felipe Melo si è fatta sentire, piaccio o no, cioè, è un giocatore che ha, come ha sottolineato Mancini, la giusta cattiveria agonistica, ma che ha anche i piedi per far ripartire l'azione. Dunque è stato giusto sottolineare questa differenza che Felipe Melo ha portato. Ci fermiamo per il GR, torniamo subito dopo. 800 24 00 24, il numero verde. Sì, ciao professore, come stai? Grazie. Ciao. Tutti convocati. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, la pecora nera di Sara Tardelli e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Convocati. La firma è solo una formalità? Credo di sì a questo punto, perché Mr. B si sta comportando con molta serietà, devo dire che mi piace molto anche come persona e quindi è un partner molto gradito con cui penso si potrà fare un ottimo lavoro per il Milan. Io credo che ci sono intervenute molte considerazioni e approfondimenti negativi, per cui immagino che prevarrà i sentimenti di affetto che ho io nei confronti di San Siro. Oltretutto so che San Siro sta abbellendosi perché deve adempiere a ciò che chiede la Federazione Internazionale per essere sede del campionato, della finale del campionato europeo l'anno prossimo. Ogni promessa è debito. Marco Verinazzo mi ha raggiunto da Sole 24 Ore. Ciao Marco. Eccoci, buon pomeriggio a tutti. E si è collegato anche Pierluigi Pardo da quel treno in Inghilterra. Ciao Pier. Come va? Come va? Siamo pronti per stasera, però adesso insomma direi dal professor Verinazzo dalle sue delle parole di Berlusconi ieri sera mi sembrano importanti, no? Sì, mi sembrano importanti. Poi vorrei chiedere a Marco Verinazzo se questo è di sentimenti per San Siro o di quattrini o di conti sbagliati. Diciamo, da dove vogliamo partire? Da dove vuoi. No, mi sembrano parole importanti che certificano il fatto che la trattativa con Mr. B è giunta, diciamo, fisiologica a conclusione. Ci sono dei tempi tecnici che porteranno alla firma entro fine mese, e quindi tutte le perplessità e i dubbi che erano sorti anche per la crisi delle borse asiatiche, insomma, sono state fugate da queste dichiarazioni di Berlusconi, da questo incontro che è servito per delineare, non è stata una visita di cortesia, ma è servito a delineare una serie di elementi e di strategie, certo, da impostare fin da adesso, insomma, per sviluppare appuntamenti di lavoro. Ma mi riferivo più che altro allo stadio. Berlusconi parla di sentimenti riguardo a San Siro. Beh, io non credo sia proprio soltanto i sentimenti, non c'entrano nulla, insomma, c'entrano, ovviamente siamo chiari. Allora, la questione è semplicemente che il progetto è stato portato avanti dalla D del Milan, Barbara Berlusconi. Era un progetto con dei buoni presupposti, direi. Il progetto, insomma, non era del tutto infondato. Il problema è che poi questo progetto è stato portato a chi doveva metterci i soldi quando c'è stato l'ok, il primo ok di Fondazione Fiera, cioè la Fininvest, e la Fininvest, insomma, ha avuto qualche perplessità suffragata dal fatto che c'era un problema di bonifica, di costi, perché siamo in un'area ex industriale. Il progetto prevedeva di scavare almeno per 15 metri perché lo stadio doveva essere interrato, e quindi significava fare una bonifica ancora più profonda. Quando inizi una bonifica di quel tipo, sai innanzitutto quando cominci e non sai quando finisce, e soprattutto non puoi stimare i costi. E ora nel progetto il Milan si era accollato questi costi. Questo avrebbe però determinato, diciamo, una posizione, come di finanziaria, delicata fin da subito, e quindi il dietro front si spiega con questo. Personalmente io sono almeno un paio d'anni, insomma, che propendo per la linea San Siro, nel senso che Milan e Inter dovrebbero, date anche le condizioni economiche delle due squadre, puntare su un vero restyling di San Siro, puntare a una cogestione, magari una concessione di 99 anni alla creazione di un impianto che potrebbe innanzitutto garantire, con la presenza delle due squadre, almeno una cinquantina di eventi all'anno. In più, sfruttando anche le aree che sono attorno, potrebbe permettere di differenziare in qualche modo ingressi, potrebbe, certo, permettere, certo, insomma, fatto un'operazione profonda su San Siro, che comunque rimane un monumento, anche se pure dove Pardo ora in Inghilterra i monumenti li ha tirati giù e hanno costruito delle altre cose. Wembley è stato tirato giù, quindi il monumento massimo, insomma, Highbury, insomma. Però San Siro, ecco, rappresenta anche per gli appassionati asiatici ed anche per Mr. B, lo abbiamo raccontato da luglio, agosto, insomma, da quando c'era il pieno della trattativa, un elemento essenziale del brand, certo, Milan, certo. No, ma è chiaro, è uno stadio che è conosciuto in tutto il mondo. Non so se Pardo si è ricollegato dal treno per Manchester, lo stiamo richiamando. Benissimo. E allora parliamo con Giacomo da Bari? Certo che lo facciamo. Buongiorno Giacomo. Buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione. Grazie. Salve. Io lo ascolto sempre. Senta, io vorrei tornare un attimo indietro sul discorso di Allegri, se mi è consenta. Sì. In poche parole, ho visto la partita in televisione sia contro l'Udinese che contro il Chievo e non mi è dispiaciuto il modo di giocare della squadra. Chiaro, allora con la Roma è stata massacrante, cioè non era una squadra che giocava. E l'unica cosa che chiedo a lei un magari un conforto di quello che io ho visto, cioè secondo me giocare a calcio le squadre hanno un copione. E si cambiano sempre gli attori, il copione non lo impareranno mai a memoria, quindi non riesco a capire come mai Allegri non abbia puntato su un 11 effettivo che continuasse sempre a giocare, magari inserendo Quadrado, che a me non è dispiaciuto per niente. Mm-hmm. E, magari ecco, ci sono dei correttivi a centrocampo, poi la palla, il palo di Pereira o altre situazioni similari, se fosse Giacomo, entrata però anche comincia, la parata. Giacomo, però comincia a mancare Marchisio, Quadrado è arrivato alla fine del mercato, Hernanes è arrivato all'ultimo giorno di mercato, Pogba non sta vivendo un momento particolarmente brillante, non si è ancora ben capito quale possa essere una chimica dell'attacco definitiva. Ricordo che oggi giocherà Dybala al posto di Morata in coppia con Mandžukić e giocherà Barzagli come scontato nelle partite che contano e non il Cáceres che vedete oggi scritto in formazione. Secondo me ci sono delle attenuanti generiche sul lavoro di Allegri, certamente credo ci voglia una ragionevole pazienza anche in questo caso, no Marco? Sì, credo che... Come per il Napoli di Sarri forse. Tralascerei il riferimento insomma al Napoli e parlare della Juventus. Ne parliamo, quindi, credo che insomma, i tifosi della Juve hanno vinto molto e devono essere consapevoli che si sta cambiando un progetto radicalmente, magari non sono arrivati tutti i giocatori che Allegri desiderava che arrivassero, però sono stati fatti degli investimenti importanti, si è raggiunto l'utile con il bilancio 2015 dopo sei anni traversata nel deserto, quindi la Juve ha raggiunto un fatturato record, quasi 350 milioni che sono insomma diciamo 350 strutturali che era un po' l'obiettivo della proprietà, l'autosufficienza, insomma sono risultati che pongono la Juventus nell'elite del calcio europeo. È chiaro che siano stati anche rispettati i tempi, no? Perché era stato fatto questo piano quinquennale, piano qui era andare in stile sovietico, in stile un po' con sovietico, un aumento di capitale di 120 milioni che ha portato oggettivamente a dei risultati, degli investimenti sul mercato negli ultimi anni superiori a 200 milioni insomma al netto delle cessioni, credo che insomma non si possano lamentare che hanno prodotto, i tifosi juventini che hanno prodotto dei frutti tra l'altro questi investimenti sul mercato, perché sono state anche mi viene in mente Vidal, è stato venduto a un gran prezzo, quindi questo sì. C'è Pardo? Eccolo lì, Pierluigi. Ci sono. Sei. Ti stavo seguendo e devo dire che... Se il fatturato andasse in campo stasera andresti a Manchester con un altro spirito. Beh, il fatturato diciamo che il fatturato del City non è male, eh. Il fatturato del City non è male, il ranking a favore della Juve, ovviamente anche grazie al risultato dell'anno scorso. Dal punto di vista tecnico mi sembra una partita chiaramente incanalata su un binario, però insomma ci aspettiamo una scossa dalla Juve prima o poi. Questa è una serata molto difficile, ma è una serata nella quale dovesse arrivare la scossa l'avrebbe doppio. Sì, certamente. Hai sentito, no, che gioca Dybala al posto di Morata, gioca Barzagli per Cáceres. E poi vediamo come sarà composto quel centrocampo, perché non credo giocherà il ragazzino appena arrivato. Beh, Dybala mi sembra logico per due motivi. Il primo perché mi sembra che ci sia la necessità di combinare le due punte della Juve con diciamo un piccolo e un grosso, se mi passa la questione, no? Cioè mi sembra che Dybala sia quasi imprescindibile. Poi ha fatto 3 dei 4 gol stagionali, mi sembra quello più avanti degli altri, e quindi francamente non mi sorprende. Su Morata, cioè, gli indizi erano arrivati con la sua presenza in campo dal primo minuto nel match contro il Chievo, è anche l'uomo dei gol pesanti dell'anno scorso, questo non va ovviamente dimenticato. È l'uomo dei gol contro il Real, contro il Dortmund, certo, in finale contro il Barcellona, quindi forse questa sfrontatezza e questa qualità può diventare utile in corso d'opera. Mauro Belluno, buongiorno. Mauro? Mi sente Mauro da Belluno o non mi sente Mauro da Belluno? 800 24 00 24 è il numero verde. Tu non vuoi parlare di Napoli, ma tra poco lo faremo, eh? Lo facciamo, credo anch'io. Comunque, l'ultima tornerei sulla Juventus. Sì, no, giraci per dire tanto, che, tanto di Napoli. Per parliamo, dire che credo anch'io, insomma, che sia un crocevia importante. Insomma, quello di Manchester. Anch'io mi aspetto, insomma, in campo europeo, una Juve più leggera, ecco, che giochi con una sensazione più positiva. E Allegri, insomma, credo che stia trasmettendo quella tranquillità con cui è necessario affrontare il Manchester. Ricordiamo poi che il City non ha una bellissima tradizione in campo europeo, internazionale, no, certo. Nonostante il miliardo e oltre speso dallo Sheikh al Mansur non ha mai superato gli ottavi, e quindi può essere un elemento molto significativo. Il Napoli pareggiò col Manchester 1-1 nell'esordio, insomma, delle Ramazzarri in Champions. Vince al San Paolo, sì. Era un altro Napoli, ovviamente. Tra l'altro ricordo benissimo le due partite perché le ho commentate. Fu veramente una. La prima partita, quella in casa del City, fu una specie di rivelazione del Napoli a un certo livello, con una certa qualità. Quella del ritorno fu praticamente la partita perfetta, tra l'altro contro il City di Mancini. Ma io penso che la pressione il City ce l'abbia addosso, questo non ci sono grandi dubbi. Sì. Penso che il City sia chiaramente, con tutto quello che spende da anni. È vero che nelle ultime quattro stagioni è arrivato due volte prima e due volte seconda in Inghilterra, però ecco, diciamo, l'Inghilterra l'obiettivo è vincere più in Europa, Luigi. L'obiettivo dichiarato a questo quando punto, tutti quei soldi, l'obiettivo è quello. Non può che essere quello. Questa è una partita che la Juventus, diciamo così, può anche permettersi di perderla. L'importante è perderla in un certo modo, se così dovesse essere, ci auguriamo di no. Ha visto che Veninazzo mi tira per la camicia, e allora parliamo di Napoli. Oggi stiamo vedendo che non le manca lavoro, ha trovato Real Madrid, per quello mi pare che qualcuno ha sbagliato e stiamo vedendo sul campo lo sbaglio che hanno fatto. Andamento lento, questa melodia. Io a questo signore lo rispetto, però veramente non è che per un Napoli vincente. Io avrei tenuto Benito. Pare che questo signore che oggi allena il Napoli le hanno fatto un regalo di compleanno grandissimo. Come avete sentito, ci si è messo pure Maradona a picconare Sarri. Sì, questo signore che si sia chiuso il cerchio a questo punto intorno al povero Sarri. Caro Marco Perinazzi, per Luigi Pardi, indovinate chi abbiamo per parlare dell'argomento. Antonio Giordano dal Corriere dello Sport. Ciao Antonio. L'ha toccata piano, pianissimo Diego. Quel signore ha avuto un regalo, grande regalo del compleanno. Diego, è impossibile volergli bene, però quando parla insomma mette in crisi anche noi, perché ci tocca rifare i giornali poi. Sì, lo so. Sera io ero comodamente a cena quasi. Poi è arrivato lui ed è saltato il banco. Sì, certo. Chi è che è caduto? Ah, Pierluigi Pardo, no. sul treno per Yuma. Ma io avevo lasciato Pardo su una zattera dalle parti di Formia. Dalle parti di Formia. Sì, tanto allora, tempo fa, nell'ultimo collegamento. Ah, ho capito, no, ma la strada no, ero preoccupato che la strada da Formia a Manchester, dove stasera commenterà City Juventus, mi sembra lunghi in maniera preoccupante. No, però, dai, parliamoci chiaro. Siamo già al countdown per Maurizio Sarri, Marco Bellinazzo. Sì, credo che sia. Siamo al countdown. Sia partito, diciamo. È partito il countdown. Oggettivamente, ma il presidente, insomma, lo ha detto quando si è fatto scappare, tra virgolette, quel riferimento a 5-6 partite per rifare una squadra. Tra l'altro, appunto, credo che manchi da un po' di tempo nel Napoli una coerenza tra gli allenatori e gli schemi che vogliono adottare e i giocatori che vengono presi, perché magari quest'anno con Allan si poteva finalmente vedere qualcosa su quel 4-2-3-1 schierato ostinatamente da Benitez per tutta la stagione. Invece ci ritroviamo con uno schema, quello di Sarri, per cui uno si rinuncia agli esterni alti che sono la vera forza del Napoli, e si è visto con ad Empoli quando sono entrati poi in gioco con quello schema qualcosina di meglio, e soprattutto in gioco di Sarri dovrebbe essere fondamentale avere due terzini che salgono e sanno crossare. Ora Maggio non riesce a fare un cross, penso da 12 anni, e di solito prende sistematicamente i difensori. Bellinaccio è il Maradona dell'economia, si incarta così, incarta contro io. Non volevo parlare di Napoli, quando mi fanno parlare di Napoli mi dimentico il resto. E Isai non so perché venga continuamente schierato a sinistra, e il suo compito, diciamo, è quello di arrivare sulla linea del centrocampo e passare la palla indietro. Quindi, hai capito Antonio Giordano? Capito Antò? Ma avete fatto sedere sul vulcano, potevate dirmelo, arrivavo preparato. Ma sospettavo che si finisse a stare. Devo dire che Diego ha provveduto, come dire, a buttare un po' di sale sulle ferite, o forse addirittura ad andare oltre, insomma. Poi per quanto riguarda Sarri, è chiaro che tutto questo un po' ce l'aspettavamo, nel senso che si poteva prevedere che se fosse andato benissimo si sarebbe parlato di grande miracolo all'italiana o alla napoletana, ma se invece si incartava, soprattutto sotto il profilo dei risultati e anche del gioco, ha detto, ci sarebbe stato, come dire, questo boomerang a effetto che l'avrebbe colpito direttamente. Ora tre partite sono sinceramente poche, però va anche detto che due punti sono altrettanto pochi con un calendario tutto sommato favorevole. Sì, poi sei gol subiti, sai, se l'anno scorso adesso il meglio di quello che avevi è conservato il peggio di quello che avevi. Esatto, se Allegri l'anno scorso era ripartito dalla Juventus di Conte, quindi da una squadra solida, qui sembra che Sarri sia ripartito esattamente dal Napoli di Benitez. Dal peggio. Peggio. Dal peggio del Napoli di Benitez. Perché il Napoli di Benitez, si ricorda, ha fatto 104 gol, cioè aveva un potenziale offensivo che utilizzava appieno, ecco. Tanto per sposare la teoria di Bellinati. Io penso che però Sarri, perlomeno domenica, ha dimostrato di avere ora qualche tentazione di tridente, l'ha fatto nell'ultima mezz'ora, 20 minuti più i 6 di recupero, e che quindi qualcosa voglia poter cambiare. Magari non lo farà subito, perché è chiaro che non sconfesserà se stesso e anche quello che poi è un po' il suo calcio, però cercherà anche il modo per prendersi Mertens, Calleon e tenerseli belli buoni, perché io credo che 5 così non ce li ha nessuno. No, sono d'accordissimo, tanto che Mancini dopo il derby ha detto va bene, l'obiettivo, una squadra come la nostra deve avere il massimo obiettivo possibile, cioè lo scudetto, ma chi c'è più forte? E Mancini non ha avuto grandi esitazioni nel rispondere: Roma, Juventus e Napoli. L'hanno presa per una provocazione, io invece penso che dicesse quello che pensa. Sì, no, lo penso anch'io, anche perché mi sembra realistico. Se c'è un aspetto positivo in questo momento è Lorenzino Insigne, che si sta dimostrando un grande giocatore. Penso che da lui Sarri non possa prescindere. Sì, ma no, tra l'altro sta stupendo. Era per Bellinaccio la domanda? Per tutti e due. Tutti e due. Vai Marco, prima tu. Sì, così mi prendo io le responsabilità per prima, Antonio. Stavolta rispondi prima tu. Ah, ecco, mi hai fatto il franello. No, credo che Insigne stia andando persino oltre, onestamente. Non mi aspettavo che facesse così bene esso. Continuo a pensare che lui sia un attaccante, cioè sia uno da tenere in prossimità della porta e da liberare da certi compiti difensivi, quelli che i bravi definiscono la fase passiva, di non possesso e quindi di controllo del regista avversario. Però sta facendo bene, ha fatto un gran gol. Se riuscisse a depurare anche da certi frammenti di presunzione che ogni tanto lo spingono ad andare oltre, come in occasione della palla mandata ad Amsic con un tiraccio dai 30 metri, però è un giocatore che sta esprimendo tutta la sua grande fantasia e il suo talento e che probabilmente nasconde dentro di sé delle potenzialità da trequartista. Che sono da verificare, ma che ci sono. Comunque è un giocatore molto eclettico, e questo è sicuro, perché dove lo metti un attimo di ambientamento e poi il suo te lo dà quasi sempre. Antonio, ti ringrazio. Salutatemi Pardo quando lo ritroverete. Quando lo ritroveremo. Io direi due cose velocissime sul Napoli. Sì. La prima è che Sarri poi è stato tradito in queste prime partite dal suo uomo faro, cioè da Valdifiori, che non si reggeva in piedi. E l'altra cosa è che, visto l'andamento, insomma, delle prime partite e gli schemi di Sarri, aver rifiutato, e dirò forse una cosa che fa arrabbiare molti tifosi napoletani, aver rifiutato 25 milioni per Amsic forse non è stato esattamente un colpo di genio. Non è stata un'idea brillantissima. In 20 secondi mi dici eventualmente il Napoli quanti quattrini potrebbe spendere su un eventuale mercato di riparazione? Beh, credo che 10-15 milioni, non tantissimo, a causa, insomma, della mancata qualificazione in Champions. Però se si dovesse superare il girone dell'Europa League, quest'anno i premi sono un po' più alti e quindi qualche sforzo in più si potrebbe fare. Quindi 15-20. 15-20, 25 se si aggiunge una cessione, insomma, di peso. Grazie Marco, ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto. Grazie Marco Brinazzo, Giorgio De Luca, nostro autore, c'è Pietro Lacorte in regia e Giovanni Melchiorre in redazione. Noi ci risentiamo domani alle 2, tutti convocati. Grazie, buon appetito.